Allora, io credo che si può dare senz'altro la parola al dottor Reinhardt, il quale parla sulla base di credo sulla base di questo schema che noi abbiamo tradotto. E che prego, quindi cominciamo. Mi trovo obbligato di ringraziare i colleghi Prodi e Schiera per la introduzione tanto gentile e competente, ma mi mancano le parole per commozione naturalmente e anche per la mancanza della conoscenza dell'italiano. Devo fuggire nella lingua materna, ma per la sua consolazione si trovo qui una traduzione di un riassunto fatto con la usata maestranza del professor Schiera. Io penso che è meglio che il mio prodotto. Adesso cominciamo con la confessionalizzazione come radice del moderno disciplinamento sociale. Erstens, Fragestellung. Konfessionelle oder religiös-neutrale Staatsbildung. Im 16. und 17. Jahrhundert entstehen aus religiösen Erneuerungsbewegungen der einen Kirche des Mittelalters verschiedene organisatorisch getrennte Konfessionskirchen. Zur selben Zeit erfährt die seit dem Mittelalter andauernde Konzentration von Herrschaft einen Wachstumsschub, der endgültig zur Frühform des modernen Staates führt. Die Frage, was diese gleichzeitigen Prozesse miteinander zu tun haben, wird von deutschen Historikern und Juristen gemeinhin damit beantwortet, dass aus allzu moderner Perspektive dahin beantwortet, dass die Schiedsrichterrolle des religiös-neutralen modernen Staates über den hadernden Konfessionen zur Quelle seiner Stärke und Legitimität erklärt wird. Diese Auffassung orientiert sich am Frankreich Jean Baudins und Heinrichs des Vierten und an Brandenburg-Preußen, wobei der politische Erfolg dieser beiden Staaten dem Rezept konfessioneller Neutralität recht zu geben scheint. Es wird freilich dabei übersehen, dass konfessionelle Neutralität in Frankreich nicht Staatsprinzip, sondern eine vorübergehende Notlösung war. Nicht das tolerante Frankreich des Edikts von Nantes, sondern das intolerante der Aufhebung dieses Ediktes wurde zur Vormacht Europas. Seine Macht wächst parallel mit der Intoleranz. Tolerante Länder sind im 17. Jahrhundert schwache Länder. Auch in Brandenburg-Preußen kann ja im 17. Jahrhundert von Toleranz oder gar konfessioneller Neutralität nicht die Rede sein. Auch hier handelt es sich um sehr begrenzte Zugeständnisse, die von der politischen Konstellation erzwungen wurden. Johann Sigismund, 1608 bis 19, und auch noch der große Kurfürst Friedrich Wilhelm, 1640 bis 88, hatten durchaus die Absicht, langfristig ein gemäßigtes, reformiertes Bekenntnis gegen das in ihren Ländern etablierte Luthertum durchzusetzen. Nur die Uneinheitlichkeit ihrer Länder und die Bedeutung der Stände geboten ihnen bei den einschlägigen Maßnahmen Zurückhaltung. Vor allem aber konnte gegenüber den Papisten von konfessioneller Neutralität in Brandenburg-Preußen im 17. Jahrhundert überhaupt nicht die Rede sein. Konfessionelle Neutralität des Staates gehört meines Erachtens frühestens ins 18. Jahrhundert, nicht nur, weil dergleichen inzwischen durch Aufklärung theoretisch legitimiert war, sondern vor allem, weil der Staat inzwischen stark genug war, um sich Toleranz leisten zu können. Stark geworden war aber nicht zuletzt durch Zusammenwirkung mit den Konfessionskirchen, durch Zusammenwirken mit den Konfessionskirchen. Nun, da er deren Dienste nicht mehr benötigte, wurden die Konfessionen entbehrlich. Das 16. und 17. Jahrhundert war sich durchaus darüber im Klaren, dass konfessionelle Homogenisierung und Disziplinierung eine innenpolitische wie außenpolitische Kraftquelle erster Ordnung ist. Für Spanien hat der Jesuit Juan de Mariana um 1600 bereits auf die theologische Begründung der Intoleranz verzichtet, als er konfessionelle Einheit für staatsnotwendig erklärte. Im Reich schreibt der Lutheraner Dietrich Reinking 1653 in seiner biblischen Polizei, ich zitiere, Religio und Ratio Status fangen beide vom R an und stecket in diesen beiden das größte Arcanum Republicae, sonderlich wann ein neues Reich und Regiment stabiliert werden soll. Eine Religion in einem Land und Republika verbindet und verknüpft die Gemüter der Untertanen unter sich und gegen ihre Obrigkeit so viel stärker und erhält besser Vertrauen. Und wenn 1651 Thomas Hobbes im Leviathan so großen Wert auf die Kirchenhoheit des Souveräns legt und schließlich die Kirche mit dem Staat identifiziert, dann ist dies nicht nur Antizipation aufgeklärten Staatskirchentums, sondern zunächst einmal Denken eines konfessionellen Zeitalters. Zweitens, Steigerung des weltlichen Kirchenregiments. Herrschaft hat seit dem Mittelalter immer auch Kirchenherrschaft bedeutet. Der Kampf um die Libertas Ecclesiae hat die Eigenkirche durch den Patronat ersetzt. Die realen Herrschaftsverhältnisse dürften sich aber wenig unterschieden haben. Auch auf höherer Ebene ist die kirchliche Autonomie bzw. die Kompetenz des päpstlichen Universalepiskopats stark eingeschränkt. Der spätmittelalterlichen Ecclesia Anglicana oder Ecclesia Gallicana entspricht im Reich das landesherrliche Kirchenregiment nach dem bekannten Motto Dux Clivae Papa est Interis Suis. Nicht nur mit der Kontrolle des Kirchengutes und der geistlichen Jurisdiktion befassen sich die weltlichen Gewalten, sondern auch mit genuin religiösen Anliegen und Maßnahmen wie Visitationen und Reformen. Die Reformation, die protestantische Reformation, setzt bekanntlich hier nur alte Traditionen fort. Demgemäß könnte die Reformation aus politischer Sicht als Veranstaltung der wachsenden Staatsgewalt zum Zwecke der endgültigen Unterwerfung der Kirche gedeutet werden und ist so gedeutet worden. Die Reformatoren hätten demgemäß die objektive Aufgabe gehabt, mit ihrer Theologie der Rechtfertigung aus dem Glauben und des allgemeinen Priestertums die Legitimationsgrundlage des geistlichen Standes und einer gesonderten kirchlichen Organisation zu zerschlagen, sodass der Staat nur noch zugreifen musste. Man kann aber nicht genug betonen, dass sich die Verhältnisse im altkirchlichen Bereich nach der Reformation ungeachtet fundamentaler theologischer Gegensätze in der Praxis wenig vom weltlichen Kirchenregiment des evangelischen Europa unterschieden. In ihrer Bedrängnis war die alte Kirche gezwungen, sich mit den politischen Gewalten, die sie eben noch mit der geplanten Fürstenreformation des Trienter Konzils hatte korrigieren wollen, zu arrangieren. Mit kirchlicher Duldung oder gar Zustimmung konnten die Staaten des katholischen Europas ihr Kirchenregiment behaupten und ausbauen. Konflikte endeten in der Regel mit Niederlagen der Kirche. Eine Untersuchung des Benefizienwesens und der kirchlichen Jurisdiktion des 17. Jahrhunderts müsste meines Erachtens zu dem Ergebnis führen, dass die vom Papst beanspruchte Kirchenhoheit nur dort realisiert war, wo er auch die weltliche Herrschaft innehatte, das heißt im Kirchenstaat. Entscheidend ist aber nun, und das ist heute unser eigentliches Thema, dass dieses traditionelle weltliche Kirchenregiment infolge der Reformation nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Steigerung erfährt, in dem sich die Staatsgewalt an den beiden korrespondierenden Prozessen Bekenntnisbildung und konfessioneller Disziplinierung maßgebend beteiligt. Auch sie hat ja ein lebhaftes Interesse daran, dass das neu belebte personale Bekenntnis zu Christus mittels Bekenntnisdokumenten von der Art der Professio Fidei Tridentina oder des Konkordienbuches reguliert und normiert wird. Nur so kann im Innern Ordnung gesichert und nach außen Abgrenzung bzw. ein Bündnis gleichgesinnter geschaffen werden. Erst recht aber hat die Staatsgewalt ein Interesse daran, ihre Untertanen in einem bisher noch nicht dagewesenen Maß mittels konfessioneller Homogenisierung zu disziplinieren. Vergessen wir nicht, einen anderen Weg der Verinnerlichung von Disziplin als dem religiösen gibt es noch gar nicht. Noch hat die Dissoziation der Lebensbereiche sich nicht durchgesetzt. Noch bildet das religiöse Bewusstsein den unentbehrlichen Brennpunkt des soziokulturellen Systems. Es bleibt der wachstumsbewussten Staatsgewalt gar nichts anderes übrig, als sich aktiv und entschieden am Prozess der Konfessionalisierung zu beteiligen. Was aber sind die tieferen Triebkräfte, die zu diesem allgemein verbreiteten Bedürfnis nach Glaubensgewissheit und Organisationssicherheit führen? Darauf soll Antwort gegeben werden, zunächst in drittens Theorie der Konfessionalisierung. Warum erhalten also Überzeugungssysteme, mit deren Hilfe sich die Menschen in der geistigen Welt orientieren, im 16. Jahrhundert den Charakter von Verteidigungsbastionen gegen bedrohliche Informationen, sodass schließlich die soziale Funktion der Sicherung über die theoretische Funktion der Weltorientierung dominiert, Gewissheitsstreben den Sieg über Wahrheitssuche davonträgt. Offenbar ist der Ausbau des Neuen zum System zur Organisation mit ständiger Bedrohung seiner Identität verbunden. Wenn nach dem deutschen Soziologen Luhmann das soziale System definiert ist als Sinnzusammenhang von sozialen Handlungen, die aufeinander verweisen und sich von einer Umwelt nicht dazugehöriger Handlungen abgrenzen lassen, dann ist die bereits als wichtig erkannte Differenz von innen und außen von vornherein konstitutiv. Als ein derartiges soziales System von gewaltigen Ausmaßen könnte die mittelalterliche Christenheit betrachtet werden. Erfüllte sie doch die Funktion so verstandener Systeme, nämlich die Reduktion von Komplexität in grundlegender Weise. Was heißt das? Das heißt, aus der Fülle der in der Welt vorhandenen Möglichkeiten und Deutungen werden wenige ausgewählt und in Zusammenhang gebracht, um dem Menschen die Sinnhaftigkeit seines Daseins zu garantieren. Das Ergebnis ist Generalisierung von Verhaltenserwartungen im Bereich des Handelns und des Denkens. In zeitlicher Perspektive bedeutet dies entscheidungsfreie Dauergeltung von Erwartungen, zur Enttäuschungsfreiheit immunisiert, indem Abweichungen zu Ausnahmen erklärt werden. In sozialer Perspektive handelt es sich um Institutionalisierung von Konsens durch Organisation, deren Mitgliedschaft Anerkennung und Erfüllung von Erwartungen voraussetzt, sei freiwillig oder unfreiwillig. Ein so institutionalisiertes und organisiertes System kann Teil einer Gesamtgesellschaft sein, es kann mit ihr identisch sein oder sie und andere durchschneiden. Das System der mittelalterlichen Christenheit ist unter diesem Aspekt nahezu allumfassend, denn Kirche und Reich sind getrennte Institutionen, verkörpern aber dasselbe religiös identifizierte Ganze. Erfüllt ein System seine Aufgabe nicht mehr, weil die Erwartungen zu unbestimmt oder zu widersprüchlich werden, ist die wachsende Komplexität nur durch Differenzierung zu bewältigen. Es bilden sich Subsysteme, Teile, die ebenfalls Systemcharakter haben, ihre eigenen Grenzen stabil erhalten, begrenzte Autonomie besitzen, bis hin zur völligen Verselbstständigung. Als daher das umfassende System Christenheit der zunehmenden Komplexität der sich wandelnden Welt nicht mehr gewachsen war, reagierte es mit Differenzierung. Diese Ausdifferenzierung konnte jedoch nicht mit einem Schritt zum heutigen Zustand führen. Ein Gesellschaftssystem, das ein autonomes Teilsystem Religion neben eben solchen Teilsystemen Familie, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und so fort umschließt, war noch nicht einmal denkbar. Näher lag die Ausdifferenzierung neuer Totalsysteme des bisherigen Typs, aber mit religiöser oder räumlicher Begrenzung. Obwohl diese neuen Systeme am Totalanspruch des Alten festhalten, verlieren sie doch durch ihren partikularen Charakter an Plausibilität und geraten durch die bloße Tatsache ihrer Pluralität unter Druck, unter Konkurrenzdruck. Beides ist Anlass zu verschärfter Anwendung systemstabilisierender Verfahren. Zum selben Ergebnis führt die für uns hier besonders wichtige geringe Differenzierung zwischen Religion und Politik. Da religiöses und politisches Handeln nach ihrer Sinnstruktur noch kaum zu trennen sind, hängt die Ausdifferenzierung von Konfessionen aus dem Ganzen aufs Engste mit derjenigen von Territorien und Nationalstaaten zusammen. Daher partizipieren die religiöse wie die politische Ordnung beide in gleicher Weise an der Sakralisierung von Identität, der Verankerung des gleichbleibenden Selbst in ewiger Transzendenz. Identität. Um wessen Identität handelt es sich? Um diejenige der Organisation, die Kraft dieser Identität bei wechselnden Mitgliedern dieselbe bleibt? Oder um diejenige eben dieser Mitglieder, die dadurch als Individuen kontinuierlich dieselben bleiben? Im Grunde um beide. Denn die Identität der Gruppe wird Bestandteil der Identität der Mitglieder. Sie haben Werte und Normen der Gruppe internalisiert. Sie interagieren häufig miteinander. Sie verfolgen gemeinsame Ziele. Sie werden von sich selbst und anderen als Mitglieder anerkannt und sind damit an einem gemeinsamen Rollensystem beteiligt. Das Ergebnis ist ein relativ einheitliches Verhalten gegenüber der Umwelt. Nur diese Einheitlichkeit des Mitgliederverhaltens berechtigt uns ja, einem theoretischen Konstrukt wie dem System oder einem abstrakten Gebilde wie einer Organisation Absichten und Handlungen zuzuschreiben und von ihm wie von einer Person zu sprechen. Einheitliches Verhalten einer Gruppe kann meines Erachtens auf dreierlei Weise bestimmt werden. Erstens, durch rationales Kalkül des individuellen Nutzens, wenn das Interesse des Individuums mit demjenigen der Gruppe identisch ist. Zweitens durch Selektionsmuster, die dem Ich für seine Reflexion vorgegeben sind, insbesondere durch die Sprache. In der Sprache kann bereits darüber entschieden sein, wie das Individuum die Welt sieht. Es gibt zum Beispiel mindestens ein Volk, in dessen Sprache so objektiv definierbare, in Wellenlängen des Lichts definierbare Sachverhalte wie Blau und Grün nicht existieren, sondern begrifflich dasselbe sind. Sprachlich vorgegeben. Dieser Zustand lässt sich bei Bedarf auch bewusst herstellen. So schreibt Ignatius von Loyola, ich zitiere, was meinen Augen weiß erscheint, halte ich für schwarz, wenn die hierarchische Kirche so entscheidet. Drittens kommt einheitliches Gruppenverhalten durch mehr oder weniger unbewusste Identifikationsprozesse zustande. Nach dem Psychologen Erikson identifiziert sich der Mensch in der Adoleszenzphase an der Schwelle des Erwachsenenalters mit der vorgegebenen Werthierarchie seiner Gruppe. Wenn dies der Mehrzahl der Individuen gelingt, regeneriert sich die Gruppe. Wenn nicht, kommt es zu einer Krise des Individuums und einer Situation sozialen Wandels in der Gesellschaft. Ein solches Identitätsvakuum kann entstehen aus Angst vor weltverändernden Innovationen, durch Verfall von Institutionen, die Träger des Wertsystems waren, und dem daraus folgenden Verlust von Lebenssinn. Wenn nicht neue Ideen, neue Möglichkeiten der Identifikation bieten und in einer Krisensituation die Antwort auf die Frage, wer bin ich, ausbleibt, entfaltet sich irrationale Dynamik bis zum Hass gegen sich selbst und andere, unter Umständen zum Hass gegen fiktive andere, zum Beispiel Hexen. Das Problem der Entstehung von Aggression ist zwar immer noch umstritten, nicht aber der für unseren Zusammenhang wichtige Sachverhalt, dass die notwendige Verbindung zwischen dem Gefühl der Unzufriedenheit und seinem Ausbruch in Aggression nicht durch die Emotion selbst, sondern durch die Deutung der Ursachen der Unzufriedenheit hergestellt wird. Die Mittel, mit denen Religion vorzubeugen und zu heilen vermag, sind erstens die emotionale Bindung an einen zentralen Bezugspunkt der Gruppe, sei das eine Person oder ein Programm, ein Bekenntnis. Angriffe von außen verstärken nur den Zusammenhalt im Innern, das Vorurteil wird in diesem Kontext rehabilitiert. Zweitens symbolisieren Rituale das Bedeutungssystem und repräsentieren durch Wiederholung sein ewiges Gleichbleiben. Drittens stiften Mythen und auf höherem Reflexionsniveau Theologien Identität durch Ermöglichung sprachlicher Wiederholung grundlegender Inhalte des Werte- und Normensystems. Nun, mit Dank für Ihre Geduld gegenüber meinen theoretischen Darlegungen komme ich zum vierten Punkt, Verfahren der Konfessionalisierung. Viertens, Verfahren der Konfessionalisierung. Nun soll systematisch untersucht werden, wie die skizzierten sozialen und psychischen Mechanismen wirken oder zur Wirkung gebracht werden, um Konfessionen als neuartige religiöse Organisationen hervorzubringen. Seit Ernst Walter Zeden wissen wir, dass wir dabei vergleichend vorzugehen haben, weil ungeachtet eines zeitlichen Vorsprungs der Reformation vor der Regeneration der alten Kirche und gewisser Besonderheiten der drei Konfessionen der Vorgang doch im Wesentlichen parallel nach denselben Regeln abläuft und das Ergebnis dasselbe ist. Die calvinistische, katholische und lutherische Konfessionskirche. 4.1. Voraussetzung jeder Konfessionalisierung ist die Wiedergewinnung der Klarheit fester Überzeugungen im theoretischen und harter Entscheidungsfreude im praktischen Bereich, die Überwindung von Friedenswillen und Ausgleichsbemühen. Nicht freies Wehen des Geistes ist mehr gefragt, wie einst beim jungen Luther, sondern Bindung an Institutionen, wie bei Calvin, der nicht nur Jurist, sondern auch Reformator der zweiten, der konfessionsbildenden Generation gewesen ist. Theologisch wird diese Voraussetzung durch Glaubensbekenntnisse geschaffen. Die Confessio Augustana, deren 450-jähriges Jubiläum wir 1980 in Augsburg gefeiert haben, ist relativ früh in noch ungeklärter Situation 1530 entstanden. Ihre Aussagen sind daher relativ unscharf und bedürfen der weiteren Auslegung und Festlegung eben durch die Konkordienformel. So viel zur Theorie. Im religiösen Alltag braucht solche Klärung längere Zeit. Weitere Verzögerung kommt durch die bekannte religiöse Gemengelage im Reich zustande, die die Entstehung konfessioneller Mischformen und Symbiosen begünstigt. Wenn der im 16. Jahrhundert laut Zeden gar nicht so selten vorkommende Pfarrer, der zwei Konfessionen zugleich diente, auch langsam aussterben mochte, gemischte Kollegiatkapitel und dergleichen gab es weiter. Paradebeispiel für die Beseitigung von Unklarheit ist der Laienkelch. Der Abendmahlsempfang unter beiden Gestalten. Bekanntlich weniger ein Streitfall der Theologie als der Kirchendisziplin, ja wir können sagen der Politik. Angesichts des scheinbar geringen theologischen Risikos wurde er in Jülich-Kleve aus humanistischem Reformwillen in Bayern aus taktischem Entgegenkommen zugestanden, mit dem Ergebnis, dass er sich als Vehikel des neuen Glaubens entpuppte. In Bayern wurde staatlicherseits die eben erst bewilligte Praxis daher sofort wieder unterdrückt, wobei sich die Registrierung von Kelchkommunikanten zum nützlichen Hilfsmittel zur Aufspürung von Ketzern entwickelte. 4.2. Den Ausschlag sollte freilich noch nicht die Klärung der Standpunkte, sondern erst die Verbreitung und Durchsetzung der neu geschaffenen Normen geben. Dabei erwies sich der hierarchische Apparat der alten Kirche infolge seiner Schwerfälligkeit und seines wenig geeigneten Personals zunächst eher als Hindernis. Doch als die Erneuerungsbewegung nach dem Konzil von Trient mehr und mehr Einfluss auf das Papsttum und den Episkopat gewinnen konnte, kam es zu spirituellen und organisatorischen Neuerungen, die der zur Konfession regenerierten alten Kirche längerfristige Überlegenheit garantiert haben. Die vom Trienter Konzil und den Päpsten getroffenen Entscheidungen wurden unter anderem mittels des Die Entscheidungen der Päpste und des Konzils wurden mittels des neu geschaffenen Systems der Nunziaturen vor Ort getragen, in nicht immer harmonischer Zusammenarbeit mit Orden, die Träger des neuen Geistes waren, wie den Jesuiten, den Kapuzinern und den englischen Fräulein. Regelmäßig abzuhaltende Provinzialkonzilien und Diözesansynoden dienten zur Promulgation und Anwendung allgemeiner Normen, insbesondere seit mit der Gesetzgebung Carlo Borromeus auf den Konzilien und Synoden Mailands ein erfolgreiches Modell zur Verfügung stand. Bessere Bildung des Klerus, Visitation durch die Oberen, Missionen durch die Orden trugen den neuen Geist unter das Volk. Hier berühren wir unmittelbar politische Konsequenzen. In Bayern, ich komme immer wieder auf meine Wahlheimat Bayern zurück, in Bayern werden die neuen Orden vom Herzog so planmäßig gefördert, dass neuerdings vermutet wurde, die von ihnen verbreitete neue Religiosität solle nebenbei die Bindung des Volkes an die alten politischen Zwischengewalten lockern, die ja in Bayern zur Hälfte geistlichen Standes sind. Mit anderen Worten, anstelle der Verehrung des jeweiligen Klosterpatrons soll die Verehrung des Landespatrons treten. Zur Erfolgskontrolle wurde neben den Nunzien die regelmäßige Romreise der Bischöfe, die Visitatio Liminum mit Berichtspflicht mit der Relatio Statuus eingeführt. So viel zur alten Kirche. Für die Kirchen der Reformation spielen vor allem die Ausbildungsstätten eine zentrale Rolle. Nach der spontanen Verbreitung der neuen Lehre durch die Generation der humanistisch geschulten Jungtheologen erfreute sich das Studium in Wittenberg großer Beliebtheit. Schließlich hat die Genfer Akademie die Ausbildung von Predigern für ganz Europa planmäßig organisiert, bis die weltlichen Obrigkeiten vielerorts die Sache in die Hand nahmen. Häufig folgt die Ausbreitung der Reformation nicht nur vorgegebenen Gruppenkohärenzen, sondern auch politischen Affiliationen als Leitlinie. Es sei nur an die nationale Ausrichtung der Konfessionen in Osteuropa oder an die kursächsische konfessionelle Schaukelpolitik des 16. Jahrhunderts erinnert. Nicht selten wurde der städtische oder fürstliche politische Apparat zur Einführung neuer Normen benutzt, ein Verfahren, das in Kombination mit spezifisch altkirchlichen Institutionen auch dem Katholizismus nicht fremd blieb, ich verweise wiederum auf Bayern. Die Legalisierung der bayerischen staatskirchlichen Praxis begann mit drei päpstlichen Privilegien zur Pfründenverleihung, Besteuerung des Klerus und Strafjustiz über den Klerus schon 1524 und gipfelte im Konkordat mit den Bischöfen der Salzburger Kirchenprovinz Ende des 16. Jahrhunderts. Als Oberinstanz war 1570 der staatliche Geistliche Rat, eine staatliche Institution, eingerichtet worden, der seine Verwandtschaft mit dem evangelischen Konsistorium nicht verleugnen kann. Im Mittelpunkt stand jedoch überall die Überprüfung des strategisch maßgebenden Personals der Theologen, Pfarrer, Lehrer, Ärzte und Hebammen, sowie bisweilen auch der weltlichen Beamten und die Verpflichtung und je länger, desto häufiger Vereidigung dieses Personals auf die neuen Normen. In Bayern wurde seit 1592 auch von sämtlichen Beamten und Offizieren der Eid auf das tridentinische Glaubensbekenntnis verlangt. Kommen wir zu Punkt 4.3. Hand in Hand mit der Einschärfung der neuen Normen ging planmäßige Propaganda und die Verhinderung von Gegenpropaganda durch Zensur. Ein gezielter Ausbau des Buchdrucks bildet die Grundlage. Die Theologie degenerierte zur Waffe im Konfessionskampf. Als Kontroverstheologie hatte sie die Aufgabe, in ständiger Wiederholung die Gewissheit der eigenen Gruppennormen zu verstärken und die Irrtümer der Gegner zu denunzieren. Denselben Dienst leisteten volkstümliche Formen der Indoktrination wie Katechismen, Predigten, Missionen, Schauspiele, nebst Kultformen wie Prozessionen, Wallfahrten, Reliquien und Heiligenverehrung. Dabei verfügte der Katholizismus über ein breiteres Instrumentarium als insbesondere der stärker spiritualistisch orientierte Calvinismus. Doch scheint die Kirchenmusik in der Reformationskirche einen gewissen Ausgleich geboten zu haben. Zensur als Präventivmaßnahme hat die Konfessionalisierung überall begleitet. Der römische und spanische Index der verbotenen Bücher sind nur das augenfälligste Beispiel. Die Konkordienformel der Lutheraner fordert die Zensur ausdrücklich und im kalvinistischen Bereich handelt man nicht anders. Punkt 4.4. Aus sozialpsychologischer Sicht sind aber all diese Maßnahmen nur Vorarbeiten für die ausschlaggebende Internalisierung der neuen Normen im Sozialisationsprozess. Jede Konfession hat daher ihr Bildungswesen entwickelt und diszipliniert, um die Vermittlung der richtigen Werte und Normen an die Gruppe zu gewährleisten. Die bildungspolitischen Innovationen des Zeitalters erhalten dadurch ihren eigentümlichen Charakter. So erfolgte die Neugründung zahlreicher Bildungsstätten in der Absicht, den Besuch fremder Schulen durch Angehörige der eigenen Gruppe zu verhindern. Das parallele Interesse politischer Instanzen an der Produktion einer homogenen Untertanenschaft konnte diese Tendenz nur noch verstärken. Zum Beispiel wurde schon 1559 den Spaniern das Studium im Ausland mit geringfügigen Ausnahmen verboten. Am bekanntesten ist die Welle der Hochschulgründungen in deutschen Territorien zur Heranbildung systemkonformer Pfarrer, Juristen und Ärzte. Im Reich ohne die Niederlande und die Schweiz wurden nach meiner Rechnung im konfessionellen Zeitalter je 12 katholische und lutherische sowie 8 reformierte Hochschulen gegründet, macht zusammen 32. Die Einrichtung der vom Trienter Konzil vorgeschriebenen Priesterseminare, auch wenn es sich weniger um Hochschulen als um Knabenseminare gehandelt hat, war ein spezifisch katholischer Versuch zur Heranbildung zuverlässiger Multiplikatoren. Ebenso die Einrichtung zentraler Kollegien für Priesternachwuchs in Rom, erwähne insbesondere das Collegium Germanicum unter der Leitung der Jesuiten. Schließlich war es ja einer der wichtigsten Gewinne für die katholische Konfessionalisierung, dass der für andere Ziele gegründete Eliteorden der Jesuiten mehr und mehr zum Schulorden wurde. Die Jesuitenkollegien besaßen nicht nur in Bayern zeitweise ein quasi Monopol im höheren Schulwesen. Wegen ihrer pädagogischen Qualitäten erfreuten sie sich auch bei evangelischen solchen Ansehens, dass die Jesuitenschule in manchem Fall eine neue konfessionelle Identität einüben konnte. Aber auch die allgemeinen Schulordnungen spiegeln die Konfessionalisierung wider. die für den lutherischen Bereich vorbildliche Braunschweiger Schulordnung Bugenhagens von 1528 ist trotz ihrer konfessionellen Warnung vor der katholischen Irrlehre und ihren Folgen noch relativ weltoffen. Sie sieht zum Beispiel ein Mädchenschulwesen mit Lehrerinnen vor. Doch nach der Jahrhundertmitte herrscht eine schärfere Tonart, etwa in der Schulordnung der Fürstentümer Obern und Niedern Bayernlandes von 1569. Rekatholisierung, Bewahrung der Jugend vor schädlichen Einflüssen durch strenge Aufsicht über die Rechtgläubigkeit des Lehrerstandes und Zensur der Schulbücher gehören zum Programm. Der Gebrauch der auch bei Andersgläubigen geschätzten Katechismen Martin Luthers wird verboten und der als Ersatz geschaffene Katechismus des Jesuiten Canisius vorgeschrieben. Gebets- und Sakramentserziehung stehen im Mittelpunkt. Dabei sind neue Lieder, etwa die evangelischen Verdeutschungen der Psalmen, ebenso verboten wie die Kommunion unter beiden Gestalten. Hingegen wird Ohrenbeichte zu Weihnachten und Ostern befohlen. Strenge Schulzucht soll den Erfolg garantieren und dem Staat gehorsame Untertanen produzieren. Bildungspolitik war zwar das Wichtigste, aber keineswegs das einzige Instrument zur Disziplinierung der Mitglieder der jeweiligen Konfession. Damit komme ich zu Punkt 4.5. Ziel war eine konfessionell homogene Bevölkerung. Minderheiten waren also zu beseitigen. So wurde die konfessionelle Periode ein Zeitalter unfreiwilliger Wanderungen von den italienischen Exilprotestanten der 1540er Jahre bis zu den Salzburger Protestanten nach 1731. Anschließend, wenn die Minderheiten beseitigt waren, kam es darauf an, die Außenkontakte zu unterbinden und die Gruppenangehörigen auf Binnenkontakte zu beschränken. Ein naheliegendes Beispiel haben wir in Augsburg, wo eine paritätische Reichsstadt sowohl Protestanten als auch Katholiken umschloss und unmittelbar an der Stadtgrenze der Lech liegt, der die Grenze Bayerns ist, und der bayerische Herzog sich redlich bemühte zu verhindern, dass seine Untertanen von jenseits des Lechs durch Kontakt mit den Augsburger Ketzern etwa auf Abwege geraten konnten. Unter den eigentlichen Disziplinierungsmaßnahmen und Instrumenten steht die Visitation aber an der Spitze. Pfarreien und andere Institutionen wurden von einer kirchlichen oder gemischt kirchlich-landesherrlichen Kommission besucht und einer Überprüfung auf Herz und Nieren unterworfen, über die im Gegensatz zu früher ausführliche Akten geführt werden. Visitationen setzen allerdings eine der Gemeinde übergeordnete kirchliche Instanz voraus und sind daher auf den katholischen bzw. den lutherischen Raum beschränkt oder auf jene reformierten Gebiete, in denen ebenfalls ein landesherrliches Kirchentum errichtet wurde, wie etwa die Pfalz. Das funktionale Gegenstück bei den Reformierten ist ansonsten das Presbyterium oder Konsistorium, jenes aus Pastoren und Ältesten der Gemeinde bestehende Gremium, das nach Zürcher und Genfer Vorbild ausdrücklich zur religiösen und moralischen Disziplinierung gegründet worden war. Soziale Kontrolle durch die Führungsgruppe der eigenen Gemeinde dürfte sogar wirkungsvoller gewesen sein als jene durch die Inquisition oder die Polizei. Die Inquisition hat meines Wissens nur in Spanien und Portugal als staatliche und in einigen Ländern Italiens als päpstliche eine größere Wirksamkeit entfaltet. Anderswo war die Kirchenpolizei eine landesherrliche. Das Regime Herzog Maximilians I. von Bayern, seit dem Religionsmandat von 1598, wird wohl mit Recht als kirchliches Polizeiregiment oder totaler katholischer Staat bezeichnet, unbeschadet der notwendigen Vorbehalte gegen begriffliche Modernisierung. Immerhin bemühte sich Maximilian I. um den Aufbau eines umfassenden Spitzelwesens im In- und Ausland mit dem besonderen Zweck, die Gesinnungstüchtigkeit seiner Untertanen zu überwachen. Kennzeichnend für die Atmosphäre, die so zustande kommt, ist die Kleinlichkeit und Hysterie, mit der Lausbubenstreiche kriminalisiert und verfolgt werden. Der Hass auf den Glaubensfeind wurde planmäßig geschürt. Dazu kam der Druck der ungewohnten Disziplinierungsmaßnahmen, der Aggressionen erzeugte, die nach außen abgelenkt wurden. So wurde das konfessionelle Zeitalter zur Wiege der Verschwörungsmythen. Angefangen bei den Hexen, die in allen Konfessionen als fiktive Aggressoren verfolgt wurden. Nicht zufällig liegt hier der Höhepunkt der europäischen Hexenverfolgung. Auf der anderen Seite haben sich aber auch die Jesuiten damals bei ihren Gegnern ein stattliches Repertoire an Gräuelattributen eingehandelt. 4.6. Angesichts ihrer vorgegebenen Bedeutung für die Gruppenkohärenz mussten auch die Riten diszipliniert werden. Zunächst einmal durch Kontrolle der Beteiligung. Visitatoren, Konsistorien, Polizisten wollten genau darüber Bescheid wissen, wer seine religiösen Pflichten erfüllte oder vernachlässigte. In Bayern wurde der Empfang der Ostersakramente von Staats wegen kontrolliert, die Unterlassung bestraft. Die Pfarrer begannen also Kommunikantenlisten zu führen, wie sie sich überhaupt daran gewöhnen mussten, Taufen, Eheschließungen und Bestattungen in ihren Gemeinden aufzuzeichnen, im Dienste nicht der Statistik, sondern der konfessionellen Bestandskontrolle. Daneben wurden jene Riten besonders entwickelt bzw. unterdrückt, die als konfessionelle Unterscheidungsmerkmale geeignet waren. Im altgläubigen Bereich galt, wie gesagt, der Laienkelch als ketzerisch, während die Anbetung des Altarsakraments, der Heiligen, Reliquien, Bilderkult zu Palladien des Katholizismus emporstilisiert wurden. Bayern etwa profilierte sich als besonders katholisch, indem es den anlässlich seiner Heiligsprechung 1523 von Martin Luther als Abgott zu Meißen bezeichneten Heiligen Benno 1576 von dort nach München evakuierte und 1580 zum Stadt- und Landespatron erklärte. Doch auch zwischen den Lutheranern und den Calvinisten gab es solche Kriterien. Die Beseitigung der Bilder, der Rest der katholischen Messliturgie, der Reste der katholischen Messliturgie und des Exorzismus in der Taufe waren markante Indizien für den Übergang zum Calvinismus. Und schließlich ist gerade aus heutiger Sicht zur Vermeidung von Illusionen zu betonen, dass sie auch im konfessionellen Zeitalter gar nicht so seltenen Glaubensgespräche deswegen überlebt und noch stattgefunden haben, weil sie zum Ritual geworden sind, zum Ritual der Bestätigung des eigenen Standpunktes. 4.7, der letzte Punkt. Schließlich wurde auch die Sprache dem konfessionellen Identitätswillen unterworfen. Die vagen Gruppenbezeichnungen der Frühzeit, denen wir heute noch mit Begriffen wie Altgläubige oder Neugläubige Tribut zollen, weichen nun den bekannten Konfessionsnamen. Die Lutheraner bevorzugen zunächst evangelische oder aus juristischen Gründen Augsburger Konfessionsverwandte. Der zuerst von Eck 1520 gebrauchte Begriff lutherisch wurde wegen theologischer Bedenken und wegen des polemischen Gebrauchs durch Katholiken und Reformierte als Selbstbezeichnung lange abgelehnt. Erst nach der Konkordie wurde lutherisch ein stolzes Prädikat des Besitzes der nunmehr gesicherten reinen Lehre des Reformators. Der Begriff lutherische Kirche aber wurde vermieden. Soweit sich die Anhänger Calvins nicht wie diejenigen Luthers als evangelische oder im Gegensatz zu den Altgläubigen schlicht als Christen bezeichneten, nannten sie ihre Gemeinden Eglise Reformée und sich selbst Reformierte. Damit sollte die Überlegenheit über das Luthertum betont werden, das dem Papismus noch Zugeständnis gemacht hatte. Calvinist war eine 1553 auftauchende polemische Fremdbezeichnung der Gegner und blieb es noch lange. Die ehrwürdige Bezeichnung katholisch wurde zunächst von allen Richtungen in Anspruch genommen, gelang jedoch der alten Kirche, diesen Begriff für sich zu retten, sodass heute im evangelischen Glaubensbekenntnis nur in übersetzter Form dieser Begriff als allgemein auftaucht, um nicht konfessionelle Verwirrung zu stiften. Schließlich die Vornamen der Individuen. Einer ihrer wichtigsten Identitätsfaktoren waren nur in Genf stärkeren konfessionellen Eingriffen ausgesetzt. Es blieb zwar dort auch nach der Reformation bei der Vorherrschaft neutestamentliche Namen, aber bestimmte heilige Namen und andere typisch katholische Namen wurden verboten und die alttestamentarischen Namen erlebten einen Aufschwung, um schließlich im angelsächsischen Bereich zu dominieren. Bei den Katholiken wurde nur der alte Brauch, heiligen Namen zu wählen, 1566 gesetzlich festgeschrieben, während sich im Luthertum zunächst überhaupt nichts änderte. Ich komme zu fünftens und letztens zum Ergebnis. Fünftens Ergebnis, politische Integration und soziale Disziplinierung. Es wurde bereits festgestellt, dass angesichts des Entwicklungsstandes des soziokulturellen Systems Differenzierung nicht nach Lebensbereichen, Politik, Religion, Wirtschaft etc., sondern vorwiegend nach kleineren, regional begrenzten Totalsystemen erfolgen muss. Ferner, dass in diesen Systemen der Religion die strategische Bedeutung zukommt, weil autonome soziopolitische Werte vom selben Rang zur Verinnerlichung noch kaum zur Verfügung stehen. Deswegen finden Konfessionalisierung und Ausbildung des frühmodernen Staates im 16. und 17. Jahrhundert nicht parallel oder in Konkurrenz, sondern im engsten wechselseitigen Zusammenhang unter gegenseitiger Verstärkung beider Prozesse statt. Daher kommt auch ein gemeinsames Ergebnis zustande. Aus der Makroperspektive des politischen Systems gesehen, sind konfessionelle und politische Identität beinahe dasselbe. Der frühmoderne Staat ist zunächst einmal Konfessionsstaat. Das gilt für deutsche Territorien aller Konfessionen, vor allem aber für unser liebes Bayern, von dem der Hofhistoriograph Rader 1615 schreiben konnte, Tota regio nil nisi religio. Das gilt aber auch für größere und politisch weiterentwickelte Länder Europas. Für den Zusammenhang des Katholizismus mit der politischen Integration Spaniens ist meines Erachtens der beste Beweis die eigentümliche Stellung und Tätigkeit der Inquisition als staatskirchliche Einrichtung. Sie war die erste gesamtspanische Institution überhaupt. Sie verfolgte politisch gefährliche Minderheiten, die religiös definiert sind. In England wird der Protestantismus je länger, desto mehr zum Inbegriff nationaler Integration gegenüber der Bedrohung durch papistische Verschwörer und aufständische irische Untertanen. Die Ereignisse um das Popish Blood von 1678 bilden ein klassisches Beispiel für die integrierende Wirkung hysterischer Terroristenfurcht und gegen mehr oder weniger fiktive Aggressoren gerichtete Aggressionen. Politisch wirksame Restbestände der Protestant Nation haben sich bekanntlich bis heute erhalten. Umgekehrt entwickelt sich der Katholizismus in Irland wie in Polen später zur maßgebenden Stütze der nationalen Identität unterdrückter Völker. Besonders lehrreich für den Zusammenhang von Konfession und politischer Integration ist das Beispiel Schwedens, weil hier die politischen Interessen mit Händen zu greifen sind. Die Reformation musste aus politischen Gründen in diesem Land sehr verhalten betrieben werden. Die Krone vermochte sich am Kirchengut finanziell zu sanieren, den Widerstand des Volkes aber lange nicht zu überwinden. Erst angesichts der Bedrohung durch das katholische Polen wurde 1593 das Augsburger Bekenntnis angenommen. 1595 wurde dann das katholische Nationalheiligtum Vadstena beseitigt und die Ausweisung aller Katholiken verkündet. Der Zusammenhang konfessioneller und politischer Integration ist evident. Nun zur Mikroperspektive. In Mikroperspektive handelt es sich um die Disziplinierung von Individuen, um Kontrolle und Regulierung menschlichen Verhaltens. Die Bevölkerung gewöhnt sich daran, dass ihr Alltagsleben nicht mehr nur der informellen Kontrolle durch die Familie und andere nahe soziale Instanzen unterliegt, sondern der ausdrücklichen Regulierung durch die Staatsgewalt und die werdende Bürokratie. Dank der Aktivität der Beamten und der Kirchendiener verschiedener Konfessionen gewöhnen sich die Untertanen daran, verwaltet statt beherrscht zu werden. Und sie lernen, ihre Reaktionen zu zähmen und ihr Verhalten ständiger, restriktiver Selbstkontrolle zu unterwerfen. Die Dialektik der Aufklärung wird dieses Werk zu Ende führen und den Menschen endgültig zum Leben in der industriellen Massengesellschaft ausrüsten. Die Vorbereitung dazu, die Sozialdisziplinierung des konfessionellen Zeitalters, findet aber nicht nur in protestantischen Ländern statt, sondern überall, im katholischen Bayern wie im calvinistischen Genf. Insofern mag John Bossi recht haben, wenn er, und damit eine Huldigung vor dem Genius Lotzi, wenn er von den Trienter Konzilsvätern schreibt: "Perhaps they have as good a claim as English Puritanism to have eradicated habits which unfitted man for an industrial society." Molte grazie, e stato il professor Reinhardt ha seguito. Brevemente, all'uso, diciamo, nazionalistico o al valore nazionalistico che avrebbe avuto la religione in Polonia. Non riesco a capire bene se questo valga già per il periodo, per la prima età moderna della quale parliamo noi, oppure se valga per il XIX secolo, a partire dal... vedo che lei mi dà... allora siamo d'accordo. Era chiaro, allora, era a partire dal XIX secolo, sì. Dopo la divisione della Polonia. Sì, sì. Ecco, il secondo problema invece che c'è una più... sì, il primo era una banalità. Mi riferisco al punto 451. No, perché giustamente in Germania c'è questa ottima usanza di punteggiare, credo di avere 4.5.1. Cacciata delle minoranze e interruzione dei contatti con esse. Sì. Ecco, mi sembra un punto molto importante. Io ho studiato la Prussia e almeno per fine XVII e XVIII secolo si può vedere una controtendenza. Cioè nella Prussia si assiste a un assorbimento di minoranze. Si assiste a una minoranze diverse, se non vengono soltanto assorbite le minoranze cacciate dalla Francia dopo il rito di Nantes, eccetera, ma vengono assorbiti e non solo i sacerdoti borghesi, ma vengono assorbiti le più diverse sette protestanti, dai mennoniti a sette strane, vengono assorbiti i tartari del Don, almeno Federico II ha questo progetto, eccetera. Cioè, in altre parole, mi sembra che si debba tener conto, quando si parla della funzione unificatrice, così, della religione, di un altro ordine di fattori. E mi riferisco al problema mercantilistico, sì. Perché chiaramente l'assorbimento di minoranze rientra all'interno del discorso del mercantilismo, cioè del concetto che lo Stato è forte quando più persone abitano dentro e lavorano dentro lo Stato, e per imporre questo principio, per realizzare questo principio, non solo i sovrani prussiani, ma tanti sovrani europei nel XVII e XVIII secolo passano sopra a tutte le differenziazioni etniche, religiose o linguistiche, forse escluso il problema degli ebrei, che è un problema abbastanza particolare. Quindi mi sembra questo un problema, una specie di controtendenza che io pongo come problema all'interno della relazione e in generale del piano di lavoro, insomma, che abbiamo qui di studiare le forme di disciplinamento sociale. Posso rispondere? Col tuo aggiunto, sì. Nel principio non ho presentato regole o leggi della vita politica, naturalmente ci sono sempre delle eccezioni, no? Questo punto è chiaro. Secondo punto, siamo completamente d'accordo per il secolo, per il Settecento, ma nel Seicento io penso che la cosa è differente, anche nella Prussia, o non si chiama Prussia a questo tempo, a Brandenburg, perché comincia con gli con Glaubensgenossen, poi il dottore sta perfettamente tedesco. Sì, ma per l'assemblea è meglio di con Glaubensgenossen, con Glaubensgenossen degli Marta. Comincia con gli Ugenotti, no? E i Ugenotti sono molti utili dal punto di vista mercantilistico, ma sono anche di, con fedeli, o come si dice? Correligionari del reggente, così comincia il sviluppo, ma arriva la sua posizione, la posizione descritta di lei, e si perfeziona soltanto nel Settecento. Posso solo ma non esiste naturalmente la controprova, perché con i se non si fa la storia, però a vedere da tutta l'evoluzione successiva, io ho l'impressione che se anche non fossero stati Ugonotti, sarebbero stati molto ben accetti dal Marx, e sarebbero stati molto ben aiutati, come lui li ha aiutati finanziariamente, eccetera, per inserire, per dare a loro un ruolo di elite economica, in un certo senso, di borghesia, di pre-borghesia in Prussia. Naturalmente è un discorso un po' azzardato, perché erano Ugonotti, ma guardando l'evoluzione successiva, mi sembra che potrebbe anche pensare che abbia un'esistenza la religione in questo caso. Ma dall'altra parte il punto di vista religioso è molto importante anche sull'aspetto di politica estera, perché è una controprovocazione contro l'abolizione dell'editto di Nantes. Io penso che questa combinazione di due aspetti, questo fa un punto strategico del sviluppo alla fine del Seicento. E su questo c'era anche questo famoso saggio di Otto Finzi, proprio su Calvinismo, su Stato e Regione, in Brandenburg Preußen, no? Che mi pare, proprio nel tentativo di collegare i due aspetti di politica estera e di politica interna a cui si è ispirata la scelta dell'elettore, si muove un po' nella direzione di lei, in qualche misura. Questo Prodi? Io credo che sia un tipo generale, così per cui che può essere banale, ma in qualche modo in questo esame il punto di partenza di questa dinamica è il fatto confessionale. Era proprio su questo che invece vorrei porre un interrogativo. In questo senso, più che un punto di partenza, non si tratta forse dell'inserimento dell'aspetto confessionale, ovviamente poi importante, e quindi a sua volta capace di un effetto moltiplicatore, ma all'interno di una linea di tendenza, di strutture, chiamiamo come vogliamo, insomma, che hanno la loro consistenza in tutto quest'arco cronologico, una consistenza a sé stante, o almeno interagiscono col fatto confessionale in modo, direi, paritetico, tanto per spiegarmi, e non subordinato. Ad esempio l'evoluzione delle strutture statali, ad esempio il rapporto città-campagna, ad esempio la prevalenza della cultura scritta sulla cultura orale, quindi tutta la problematica dell'umore sul flusso della confessionalizzazione per la conquista delle campagne da parte della città, eccetera. Tanti altri problemi potrebbero essere posti, come quello per esempio dello sviluppo della professionalità per il clero, che troviamo, si discuteva proprio l'altro giorno, proprio dappertutto, ma che va inserito in tutto un contesto di formazione di ceti professionali emergenti, insomma. Cioè, ecco, la mia domanda era proprio una domanda, la mia osservazione era molto semplice di questo tipo. Ecco, rispetto a questo schema, io penso che possa essere tutto valido, ma vedrei una maggiore attenzione a elementi di interazione e non alla confessionalità come punto base di tutto questo discorso. Questo è... All'elemento non ho capito. Di interazione tra... Sì. E non... Ma ho pensato semplicemente che prima di far chiaro l'interazione importa di descrivere l'aspetto confessionale, uno degli interagenti, no? Mi ripeto però come Altgurt. Sì, era questo. Il problema è qui. Forse nella mia redazione ho scritto Altwurz, non Altivurz, vuol dire una. No, ma non è Seine Wurzel. Ecco, se vuol dire una, allora non so, perché viene per stare nella immagine, lo stato moderno è un arbore, dice, con tante radici, e uno può essere la confessionalissima. Sì, ma non solo lo Stato, volevo fare anche questi movimenti della società, insomma, che hanno una loro, in qualche modo, vita autonoma, diciamo, interagendo, insomma, anche con l'aspetto confessionale. Pasquino. Lei capisce perfettamente l'italiano, quindi vorrei fare qualche osservazione su questa relazione che ho trovato estremamente interessante, sia perché mi dava delle informazioni su processi di confessionalizzazione nei paesi cattolici. Venendo da un paese cattolico mi sono invece sempre occupato della Germania protestante. Quindi, mi ha dato elementi di informazioni importanti, ma soprattutto perché la Frankenstein, le questioni sono poste nella ricerca, mi sembrano particolarmente stimolanti. La considerazione che vorrei fare è che questo tipo di indagine, mettendo l'accento sul problema del disciplinamento e del ruolo che la confessionalizzazione ha svolto nelle fasi di disciplinamento, mi piace perché permette di ribaltare in parte una concezione della modernità che venendo dall'illuminismo caratterizza la quasi totalità dei discorsi sul moderno che hanno l'origine di filosofia politica. Mi spiego. Si è in generale sottolineato il ruolo importante per la modernità della crescita dello Stato contro la tradizione del tutto. Si è sottolineato dall'altro lato l'importanza e il carattere fondante della modernità di discorsi come quelli della tradizione naturalistica moderna, che pongono gli individui e le libertà degli individui all'origine di nuove formazioni sociali come lo Stato. Il discorso appunto che il professor Reinhardt si propone ribalta, diciamo, questa è in qualche modo l'osservazione su cui vorrei eventualmente il conferma, ribalta questo modo di vedere le cose, perché innanzitutto, e credo che il valore della lezione che era stata prima può essere ripresa in questo senso, questa categoria di disciplinamento, quando appunto capaci di produrre ricerche storiche, permette appunto di ribaltare questa concezione del moderno, perché l'individuo non sarà il punto di partenza di questa nuova concezione del mondo moderna e a partire dal quale appunto l'individuo sia contratto, per fare riferimento alla tradizione naturalistica, si costruisce lo Stato, ma l'individuo è l'oggetto di una pratica politica che è necessario ricostruire. Cioè l'individuo a questo punto non è il punto di partenza, in questa prospettiva non è il punto di partenza di una filosofia politica, è il punto d'arrivo di una pratica di potere o di governo che il suo discorso analizza. Dall'altro lato appunto, e questo forse è ancora più interessante e singolare, cioè lei sottolineava come nei fatti una serie di pratiche di disciplinamento si connettono un po' automaticamente alla nascita dello Stato moderno come realtà antireligiosa. E infatti devo dire io stesso che appunto una serie di pratiche a cui lei fa riferimento io le avevo osservate e le avevo sottolineate in non comune come opere che tradizionalmente si collega, diciamo, all'aspetto statalistico del mondo moderno. Invece lei le ritrovava in tutta questa lista, diciamo, di elementi d'analisi, dove si vede che l'attività, diciamo, della Chiesa, questa pratica della confessionalizzazione, anticipa o in qualche modo accompagna una serie di pratiche, non so, questa della visita pastorale che poi sarà in opera la visita degli inquisitori, per esempio, no? Pratiche che in genere si tende a attribuire un po' automaticamente allo Stato. Ecco, io appunto ho l'impressione, diciamo, che questo tipo di ricerca storica possa aiutare a ribaltare, diciamo, un pregiudizio positivo che esiste su certe categorie, come appunto possesso della filosofia politica, indigeno della filosofia politica, o Stato come realtà che metterebbe contro la tradizione religiosa, e appunto se posso dire le cose, se lei è d'accordo che questo tipo di ricerca può avere la funzione di ribaltare una certa maniera di considerare la modernità. Non sono sicuro di essere stato chiaro. Sì, infatti penso che questo è stato un supporto, no? Per la mia tesi. Io non sono sicuro se il concetto di modernizzazione è oggi talmente legato al concetto di individualismo. Questo è una tradizione, sì, ma adesso la tendenza è più verso disciplina e anche la partecipazione politica, sì, ma disciplina industriale e tutto questo. Di fatto non... io non sono l'inventore di questo concetto, la tendenza di usare il concetto di modernizzazione oggi, generalmente, credo, è meno individualistico che prima. Forse sì. Vuol dire che viene sempre più visto come un processo complicato, insomma, più facile, che coinvolge quindi... Sì, per essere più chiaro, per me modernizzazione non è un valore, è un fatto storico. tutto. Non è un valore, non è un processo di liberazione dell'uomo o cosa. È semplicemente un fatto, un evento che ha degli aspetti positivi e negativi, come secondo i miei valori, ma modernizzazione per sé non è un valore, e non è un valore individualistico e ha niente da fare con liberazione dell'uomo. Mostara. Chiedo scusa se intervengo in questo traffico, per quanto riguarda non sono molto competente, ma mi richiamo un'altra mia competenza, quella di accanito lettore studioso di romanzi gialli, criminal romanzi, direte voi. Qui vediamo un perfetto disegno criminoso, cioè l'utilizzo di tutta una serie di raffinatissimi strumenti per rilevimentare, disciplinare, costruire cioè le basi per uno Stato, diciamo così. Ma la vera disposizione di strumenti per imporre un disegno del genere non presuppone già un attore, un qualcuno che ci sta dietro, che è già terribilmente potente, è già qualcuno che si può permettere di imporre tutta una serie di strumenti di controllo, di bruciare gli studenti e così via. E allora se c'era già qualcosa del genere che permetteva appunto di applicare questioni del genere, manca lo scopo del delitto. Perché avrebbero fatto questo? Sì, ma è molto difficile di rispondere in italiano. Es gibt einen Punkt in meinem Referat, wo ich das klarzulegen versuchte, nämlich wo ich davon sprach, weshalb wir dem System oder dem Staat Entscheidungen, Pläne zuschreiben können. Denn prinzipiell ist die Suche nach dem Verantwortlichen natürlich kurz geschlossen, wenn wir davon sprechen, dass der Staat etwas tut oder das soziale System etwas tut. Der Prozess ist komplizierter, und ich versuchte das anzudeuten. Das läuft, würde ich sagen, grob gesprochen, über das Interesse der ganz neutral ausgedrückt maßgebenden Gruppen, weniger neutral der Oligarchien. Und das Interesse, das System in einer Weise zu erhalten oder zu reformieren, dass es am Leben bleibt. Und der nächste Schritt ist eine Trial-and-Error-Methode, wo empirisch Verfahren entwickelt werden, die, wie wir vorhin besprachen, sehr modern sein können, aber rein empirisch, nicht auf tiefen psychologischen Reflexionen beruhen, sondern auf der Erfahrung so funktioniert. So sehe ich die Sache. Ich glaube, damit ist die Frage nach dem Schuldigen einigermaßen geklärt. Praticamente il processo è più complicato e il problema, in parole estremamente povere, è parli, diciamo, primis moves sarebbero queste oligarchie, anzi maschere del gruppo, cioè gruppi che danno gruppi determinanti della società, il cui interesse, qui però appunto lo dico io, è questo di mantenere o di riformare il sistema. Ecco, e da questo momento in poi, in maniera molto grezza, si opera per interventi di tipo empirico, senza un progetto politico, ma con interventi che sostanzialmente perdurano, con consentativi, con interventi che poi danno degli esiti e che, sulla base dei quali poi empiricamente si prosegue sulla stessa strada o si cambia strada. Forse ho bisogno di chiarire un solo punto. Führende Gruppen oligarchie non vuol dire esattamente le oligarchie dominanti nel sistema, ma possono anche essere degli gruppi di innovatori, per esempio i riformatori della Chiesa Cattolica, il circolo di Contarini, o scusa, è una concezione ampia, una concezione ampia di oligarchia, secondo me. Coppola. Professionalizzazione, formazione allo Stato moderno vanno di pari passo per costituire un processo di disciplinamento che fa scoppare il prevedimento per la nascita e sciopero, l'organarsi della società industriale. Questo prerequisito poi funge in termini di processi, diciamo così, di abbreviazione, di semplificazione di quelli che poi sono gli sfidamenti della società industriale. E come dicevo, se questo discorso dell'inquinamento vede entrambi i soggetti, Stato e Chiesa, abbastanza concordi in termini di istituzione, mi chiedo come mai la Chiesa, o almeno la Chiesa cattolica, abbia questa grossa difficoltà, soprattutto a partire dal XIX secolo, a capire anche dal punto di vista filosofico, dal punto di vista, come dire, di interiorizzazione, il modello della società industriale. Anzi, per tutto un periodo dolorista, soltanto a partire dalla fine dell'Ottocento, con finissimi fatti, riesce a recuperare pian piano la stupidità, se vogliamo, del modello della società industriale. Dove si differenzia allora tra Stato e Chiesa? Qual è il momento in cui tra Stato e Chiesa si differenzia la concezione del disciplinamento, l'uno volto verso la società industriale e l'altro verso ancora un attaccamento alla società preindustriale corporale? Di fatto si agisce di un fatto paradosso, no? La Chiesa, secondo la mia tesi, è alla base della società industriale e allo stesso tempo è contro la società industriale, è vero? Ho capito bene? Sì. Io penso che la risposta è molto semplice, si esplica per il principio della heterogonia di Zwecke, non so tradurre in italiano. Wilhelm Wundt, vuol dire manca l'intenzione alla Chiesa, ma niente di meno arriva al risultato. Che la permanente contraddizione nel processo storico. Si vogliono riformare il sistema educativo e arrivano a cose che sono peggiori di prima, in Germania almeno. Basta questo. È molto modesto, ma è la sola soluzione che è possibile. Pudu. Io sono arrivato nel caso, io non capisco il adesso, quindi costruisco le cose adesso attraverso la relazione. E devo dire che mi interessa molto questo punto di prospettiva, cioè la ricerca di un modello comune al mondo, protestante e cattolico, per quanto attiene il rapporto tra confessioni e Stato, cioè mi pare di poter ricostruire il rifiuto di una scissione tra due blocchi, cioè della tradizionale scissione tra i due blocchi. Questo punto di prospettiva mi sembra che si però molto meglio dal punto di vista giusta della religione e del disciplinamento dal punto di prospettiva dello Stato e o della Chiesa, che non invece del rapporto tra i ceti, e del rapporto tra i ceti e lo Stato. Mi spiego attraverso il caso della Spagna. Mi pare che nel caso della Spagna la religione abbia un ruolo supplementare, cioè stabilisce una gerarchia e un rapporto tra i ceti e tra le funzioni, funzionali in ogni caso legato ai compiti e alle strutture dello Stato, che in quel caso sono diverse. E direi stabilisce anche una resta, un contributo alla legittimazione degli ordini, ed in particolare in un paese e in uno Stato che pone in primo piano gli ordini tradizionali. Cioè, mi pare che in questo ci sia una differenza. Io, per esempio, vengo da studi sul numero delle armi, sono passato a studi sull'esercito castigliano che dice allo punto di tipo secondo, è noto che le argomentazioni, cioè l'esercito dei santi, non è nato in Italia, non è nato in Inghilterra, le argomentazioni temi il prestigio della milizia, il prestigio della milizia associata alla lotta per la terra, eccetera, ci sono prima, però ci sono delle differenze. Ecco, voglio dire, la differenziazione tra il ruolo della religione proprio a livello di rapporto tra i ceti e di legittimazione degli ordini e delle funzioni non avviene per caso a conclusione di un processo, cioè un processo di un rapporto tra confessione e Stato che nelle sue grandi linee si somiglia dappertutto in Europa, non arriva poi a differenziarsi in sede di risultati, cioè di ruolo che la religione, il ruolo diverso che la religione può finire con l'assumere nei riguardi di strutture sociali e politiche diverse. Non so, se non è stato chiaro, non si deve essere chiaro. No, spero. Ma non so molto sulle ceti in Spagna. No, ma io volevo fare una cosa sui ceti nel mondo protestante. Cioè, in che modo si pone il... Mi chiedo, in che modo si pone i ceti, o meglio, la religione, confronti dei ceti e del mondo. Voglio dire, agisce in modo tale, secondo le interpretazioni più vecchie, no? Da stimolare, da frenare altri, da favorire lo sviluppo di realtà sociali e funzionali diverse, come la guerra, l'amministrazione, i ceti legati all'apparato dello Stato, oppure invece ne stimola altri. E in che modo agisce? Ma questo posso soltanto accettare come questione, non posso rispondere. Forse è una via di ricerca per la futura, no? Scusi. No, ma ecco, io adesso ne ho scritto io per una cosa che si ricollega forse proprio a questa. Se ho capito bene, perché non effettivamente, cioè il problema è questo, no? Lei dice, anche prima rispondendo a Mortara, parlare di Stato, parlare di sistema è un modo rapido, insomma, per sintetizzare una cosa molto più, un processo molto più complicato che è formato di gruppi variamente dominanti che determinano. No, ecco, no, ecco, d'accordo, questo può andar bene rispetto al punto di partenza del potere, che è lo Stato o il sistema. Ecco. Ma proviamo a guardare dall'altra parte, cioè i destinatari del potere, cioè quelli su cui agisce la confessionalizzazione, su cui agisce il disciplinamento, no? Ecco. Questi chi sono? Cioè, questi sudditi, questa Unterstandschaft che viene disciplinata, c'è sempre stata? È sempre stata così? Oppure è diversa ora? Cioè, l'individuo non fa la storia, l'individuo non fa il progresso, ma questi sudditi, questi oggetto, questi destinatari del disciplinamento, della social disciplinierung, sono individui o no? Ecco, qui c'è il problema dei ceti, secondo me, che interviene, perché in questa fase, nel XVI e nel XVII secolo, credo dovunque in Europa, è impossibile dare una lettura del sistema politico, sociale e costituzionale che prescinda da questa o quella organizzazione per ceti. Quindi, in questo senso, l'intervento e la presenza e l'importanza della Chiesa o dello Stato tramite la confessionalizzazione non può, secondo me, essere vista solo verso la modernizzazione, anche intendendo la modernizzazione come fatto storico, non come ideale, non come verso, no? Ma deve essere anche studiata e pesata rispetto appunto a problemi funzionali, che erano quelli che mi pare sollevava adesso Puzzi. Questo probabilmente complica di più, no? Sì. Il discorso. Questo. Ma fino adesso io penso che non si può rispondere definitivamente su questa questione. E forse adesso posso dire che io penso che il processo ha una tendenza generale per tutti, ma per il resto deve essere differenziato per ceti. Hai ragione, ma questo non è fatto fino adesso. Generalmente la mia esposizione è concentrata sul popolo, sul terzo ceto, si dice. Terzo stato. Terzo stato, no? Più o meno. E gli esempi sono presi di questo ambiente. Gli altri non sono esclusi, ma non è abbastanza differenziato. Qualcosa da fare, ancora. Con Mazzolini. Ma io volevo dire una cosa circa la confusione, che non riesco a capire. Cioè, se non sbaglio, l'identità di gruppo confessionale diventa un presupposto anche per la società iniziale, come poi si sviluppa la società. E aveva citato anche nella sua relazione appunto i puritani in Inghilterra nel 600. E anche appunto rimanendo solo nel 600 in Inghilterra, si vede che questa identità di gruppo confessionale non esiste. Perché in fondo, nonostante tutto, l'Inghilterra tiene anche i cattolici. È uno dei pochi eventi dove quel detto così bello che era lo stato della regno e della religione non funziona. Ovviamente l'Inghilterra è anche il primo esempio dove la società iniziale è vero. E quindi io ho la impressione che sia un po' inverso, cioè per la società industriale vale invece la disparità casomai delle tendenze religiose, come non è. Questa ecco, è la, diciamo, è la mia intuizione, anche per quello che riguarda in particolare Devo, posso rispondere due punti. Primo, quella citazione è di John Bossi e contiene una citazione nella citazione, una citazione di Christopher Hill. Chi ha detto che più o meno variato, lei sa bene, che i puritani sono alla base della rivoluzione. E Bossi vuol dire nient'altro che una tendenza generale che include anche i cattolici, anche in Grande Bretagna. Primo punto. Secondo punto, io penso che il conflitto religioso nella Grande Bretagna, anche il conflitto nel mondo protestantico, è una cosa cosa permanente, un processo che arriva a un certo punto di protestantazione generale della nazione verso il fine del 600. Quando i dissenters sono più o meno accetti e ricevuti nella nazione protestantica e coltivata una aggressione contro i cattolici. Però rimane il fatto grosso che i dissenters in qualche modo non vengono inclusi, vengono che anche i cattolici non vengono ammazzati, non possono eleggere le chiese con le campane fino alla fine del Settecento, devono tenere l'età del normale, però non si possono avere. E quindi è un caso in fondo, seppure non certo rispondendo ai nostri criteri concettuali di tolleranza, è un caso di tolleranza che altri paesi non hanno. Questa è la mia impressione, ecco. E poi sono proprio questi dissenters che vuoi non vuoi, alla fine del Seicento, nel primo del Settecento, mettono tutti anni di questa attività industriale, poi appunto. E quindi la questione è anche questa, se il tipo di disciplinamento di cui lei parla, che vale per Stato, Chiesa del 500-600, è la stessa cosa della società industriale. Perché è un po', e lì che mi pare un po', ecco, questa società industriale, quindi appunto nella confusione, io sono rimasto un po' perplesso sulla e poi diciamo sì, sì. Si può anche arrivare a dire in fondo che più di successo è stato il disegnamento e la confessionalizzazione, tanto più si interverrà la rivoluzione di Chirà. No. Perché la Parena è la tolleranza. No, perché questo è la stessa Germania. No. Questo vuol dire che l'industrializzazione dipende soltanto dalla disciplinazione per via della confessionalizzazione, e questo è semplicemente non è vero. La disciplina fa soltanto uno dei fattori, un piccolo fattore, sono dei fattori economici. Qui non sono stati toccati, e per questa ragione questo semplicemente non vale. Sì. Mi scusi. Per esempio il Belgio è un paese su disciplina gesuitica per 150 anni, e il secondo paese industriale del mondo dopo la Grande Bretagna. Io volevo fare un'osservazione proprio su questo punto. In realtà Reinhardt non parla di industrializzazione. Questo è un punto cruciale, perché parla di società industriali di massa, che è un'altra cosa. Cioè la società industriale di massa è qualcosa che evidentemente presuppone anche l'industrializzazione, ma implica tutta un'altra serie di cose che possono venire anche da altre parti. Questo mio fine non deve essere sopravvalutato, un po' per vero, perché è più o meno un bon mot chi vuol sottolineare il fatto che le differenze tra le confessioni non valgono in questo aspetto, perché il processo va più o meno uguale. Questo è tutto, non più. Perché questo ho trovato questa citazione dei Bossi a una relazione a Trento. A questo caso, a questa causa. Molto, con un ideologizzato il fenomeno, ecco, cioè la confessionalizzazione è una fase, ecco, che proprio nel momento in cui esaurisce avrà ulteriori conseguenze, ma proprio nel momento in cui muore, ecco, quindi, probabilmente certe cose, io conosco poco il mondo inglese, ma sono all'estrema fase, cioè arriva prima la maturazione, un processo che si consuma e che proprio consumandosi poi ha il prodotto. Cioè non esiste una, in ogni caso un'equazione o un collegamento diretto, insomma, ecco. Ma la confessionalizzazione è una fase in cui certi presupposti diventano. Ma arrivano proprio e poi hanno, no? Scusi. Ma mi resta ancora un po' di risposta a lui, perché ho dimenticato di rispondere al secondo punto. Io penso che questo punto di tolleranza, di società tollerante, è una questione di aspetto. Per me è un caso non perfetto di confessionalizzazione. Ma c'è la tendenza, la società protestante, non con la stessa conseguenza come a Geneva o a Sassonia, ma c'è la tendenza, con i risultati. E dal suo punto di vista, nel secolo XX, c'è un caso di nascenza di tolleranza. Questa è la differenza di aspetti. La literatura o il totalitarismo di questo non era stato realizzato. C'è il professor Hammerstein che è autorizzato tra in tedesco, naturalmente. Io sono in tedesco. Io sono in tedesco. Konfessionalisierung als ein ganz wichtiges Moment nehmen kann. Es gibt eine Durchgangsstufe, eine Notwendigkeit. Also kann ich nur sagen, ich bin voll. Vielleicht ist es forse meglio se Giovanni il traduttore lì. Non è molto non c'è più religione, buon signore, non c'è più religione, questo è il signore. Manca la discriminazione sociale. Allora, dottor Hammerstein sostanzialmente propone non tanto un'obiezione quanto un problema di distinzione cronologica, riferendosi poi un po' anche a quello che aveva detto il dottor Prodi prima, non riferendosi perché, ma comunque l'aveva detto il dottor Prodi prima. Cioè, se per l'età moderna intendiamo un arco cronologico ampio che comprende anche il XIX secolo, allora il concetto di disciplinamento sociale legato alla confessionalizzazione va scandito cronologicamente. Cioè, mentre nella prima fase, XV-XVI secolo, la confessionalizzazione, a suo parere, è d'accordo con il professor Reinhard, è un elemento, diciamo, che contribuisce all'andare verso la modernità, insomma, ecco, nel XVIII secolo lui individua una controtendenza che si vede ad esempio nel fallimento sia dei gesuiti e più in generale della Chiesa Cattolica, soprattutto nel campo educativo. Per cui nel XVIII secolo, e questo dimostra il fenomeno del giuseppinismo, cioè nel XVIII secolo lo Stato deve assumere necessariamente in proprio la gestione, per esempio, della sfera educativa, a cui si riferisce il professor Hammerstein, per superare la fase confessionale che ormai è diventata una fase negativa, se vogliamo, una fase ritardante, se non ho capito male. E quindi propone, diciamo, dottor Hammerstein, una distinzione cronologica o comunque di considerare la confessionalizzazione come una fase di trapasso, di transizione. Rispondo in tedesco. Ich bin völlig mit Ihnen einverstanden. Das ist ein Aspekt, den man stärker betonen müsste, aber das war nicht meine Aufgabe. Ich habe hier vom 16. und 17. Jahrhundert gesprochen, sonst von nichts. Und aus der Sicht der Modernisierung des 19. Jahrhunderts oder auch des 20. ist das, was der Konfessionalisierungsprozess dazu beigetragen hat, so viel. Das ist ein winziger Beitrag, das sind die Anfänge. Nicht? Also jemand wie Wähler oder so, der sich mit dem Deutschlands Weg in die Modernität beschäftigt, hat ein gewisses Recht zu sagen, was die Jesuiten da gemacht haben, das zählt nicht. Nicht? Das ist natürlich minimal, aber es ist vorhanden. Nicht? Und der Prozess des Übergangs, dass der Staat die Führung übernimmt, das habe ich ja kurz angerissen im Einleitungsabschnitt, das würde ich jetzt mal sehr unempirisch über den Daumen gepeilt, so sehen. Die Kirche ist der Tutor, der dem Staat die Techniken der Disziplinierung beibringt. Irgendwann hat der Staat ausgelernt und er hat, was wichtig ist, seine eigene Ideologie. Er braucht nicht mehr auf Religion zu rekurrieren und dann tritt der Moment ein, von dem Sie sprechen. Aber ich würde sagen, wir sind völlig einig. Ma ci siamo pronto a realizzare questa risposta. È perfettamente d'accordo con l'obiezione del dottor Hammerstein, ma sottolinea che lui si è riferito soltanto al XVI e XVII secolo. Dal punto di vista del XIX-XX secolo, il contributo che la confessionalizzazione può aver dato alla modernizzazione è minimo, è minimale. Ecco. Però egli ritiene che sia comunque un elemento da tenere in considerazione, anche nella nostra prospettiva. Il processo, ancora una volta sintetizzato da parte sua, è che la Chiesa sarebbe da vedere come il tutor che ha insegnato allo Stato le tecniche di disciplinamento sociale e che lo Stato successivamente ha fatto proprie e in una fase storica diversa, non so, ha a sua volta utilizzato e concretizzato. E ha anche sviluppato una sua propria ideologia. Mentre prima faceva ricorso a quella alla religione. Prodi. No, io appunto volevo solo dire questo. Sono perfettamente d'accordo sia sulla questione posta a questo anno, sia sulla risposta di Reinhard. Credo che sia visibile proprio a occhio nudo questo trapasso, ad esempio nello studio che Brizzi ha fatto sull'educazione della classe dirigente tra 6 e 700. Cioè noi abbiamo ancora prima di Giuseppe II, ancora prima della crisi dei gesuiti finale, una crisi dei collegi dei gesuiti negli anni 20-30 del 700, già chiarissima, in cui si vede chiaro come lo Stato e diciamo l'opinione pubblica, insomma, ecco, già tende a sostituire sul ceppo dei gesuiti altre forme, insomma, perché i gesuiti non sono più necessari, non sono più prima, molto prima della lotta anti-gesuita, insomma, ecco, gli allievi calano a precipizio, insomma, ecco, nascono i convitti statali, è una cosa che viene naturale proprio, e forse però anche questa decadenza qui ci può aiutare proprio a capire l'importanza della fase precedente, secondo me. Ecco, sempre su questo concetto di stupa, del processo di confessionalizzazione. Forse in Inghilterra questo può venire prima. In Inghilterra viene prima, perché è vero quello che dice Renato, ma se non è più una forma di disciplinamento confessionale, però c'è un'altra forma di, cioè, anche le accademie dove coesistono diverse religioni, cioè diversi scienziati, no? Diverse religioni, però si danno come statuto, si autodisciplinano, si danno come statuto di non discutere mai di facendo le religioni. Ma questo è il mondo degli eliti, perché il common Englishman ha un punto di vista completamente differente, molto più religioso e confessionale, io penso. Sono quando? Visto che l'asse del discorso è sulle radici, come ottiche personale, come anche ambito di competenze estremamente marginali, queste finora affrontate, marginalmente mie ovviamente, porterebbe le radici anche più lontano, più profondo, nella durata cronologica che ora ribadisco. Che l'esempio che ora Prodi ci ricordava, che Prodi stava tenendo in mente, del caso dei collegi gesuitici per i nobili, è il discorso che si porta alla radice di quei collegi, alla ratio studiorum, e alle radici della ratio studiorum. Allora mi chiedo, il modello di disciplinamento sociale che risulta così fortemente modellato sulla istituzione ecclesiastica e quindi sui meccanismi che le sono in qualche misura propri, ma che si sovrappongono a meccanismi esterni, è un modello secondo rispetto ad un altro modello già in atto, oppure un modello che così nasce, che così si ancora. Mi chiedo, il meccanismo di modernizzazione, ad esempio, proprio di modernizzazione sociale, quindi a un destinatario estremamente ampio, in atto nella società italiana, risale a un modo di scoprire. Non so se è precoce o se è più avanzato, non so se è più intimi, sono comunque differenziati, sono da pensare. Per cui, se è vero che poi, al momento in cui i colleghi che si sentono inseriti, l'istituto statale, no, ne assorbe i meccanismi modernizzanti, è anche vero che nell'organizzazione di quei colleghi, mi tengo solo su questo esempio, per le poche cose che so, concluiscono tutta una serie di processi modernizzanti che sono ad una fase che non è possibile. Ad esempio, cito alcune cose, il rapporto con la retorica. con la funzione sociale della ritorno, in quanto modello di comportamento nelle relazioni interpersonali. Ma credo che siamo tempo, poi anche domani si metterà. Quindi, la forma della, dei rapporti interpersonali, che sto io, il termine civile, la storia cinquecentesca del termine civile, è una storia che in qualche misura può essere esattamente funzionale a questo punto. Civile nasce in un ambito appunto di umanismo civile, quindi un ambito municipale, fortemente laico, per intenderci tra virgolette, e si ritrova nell'ambito della anche trattatistica cinquecentesca mondiale italiana, interamente riferito in direzione confessionale. E civile ciò che è confessionale. Però questo civile confessionalizzato, io ho letto recentemente un testo del 582, delle considerazioni sopra i giardini di Remigio Landini, che poi le considerazioni stanno riportando ad un ambito in cui il civile è confessionale, elementi che sono propri però di un meccanismo che adesso non vorrei che le radici finiscono per essere talmente profonde e remote. Però se il meccanismo, se il referente complessivo generale del processo è il disciplinamento sociale, nella, e quindi la forma dell'organizzazione sociale, il suo modello culturale in questo antropologico proposto, e allora dico, qui stava entrando in gioco anche nel mondo di oggi, vorrei arrivare all'origine di un'europea, questa ripartizione funzionale della società europea. Però ecco, c'è un momento emergente in cui il sociale funziona come punto di riferimento di una istanza modellizzata, di una stima modellizzata. Ma credo che, non so, nel campo italiano questo è evidentissimo, è il discorso che sto io che si gioca tra Corbegiano e Della Carta, che va avanti, più avanti, si confessionalizza a poco, però ha l'origine come punto di riferimento il potere laico, la corte, il sistema cortese, no? E a proposito di questo elemento qua, come nella dinamica italiana di modernizzazione gioca un ruolo fondamentale proprio la lingua, il modello linguistico del comportamento sociale, proprio come la dice prima, come luogo in cui l'identità è il proprio linguistico, no? Io avrei proprio una curiosità personale, è una richiesta che le faccio, di chiarire, non ho potuto intendere prima, questi punti 4, 7 e 6, cioè il collegamento tra lingua e poi il nome di cristianesimo del mondo. Come? Non ho capito questo. Il collegamento, il passaggio è da 472 e da 472 nome di battesimo. Sì, ma questo. Che cosa vuol dire questa presenza a 472? Sì. La lingua all'interno del. Almeno nelle specificazioni, nel campo di riferimento. Vuol dire che lingua forma l'espressione dell'interno dell'uomo e il nome personale è il centrale fattore d'identità. E si tratta di una lingua che viene proposta come lingua sostitutiva? No, non è la lingua, è un elemento linguistico soltanto, il nome. E questo elemento è integrato nel processo di confessionalizzazione. Questo vuol dire bastante. E per l'altro io sono più o meno d'accordo, perché lei stesso ha detto che questi primi elementi sono integrati nella, per esempio la retorica, nell'educazione gesuitica. Non ho detto che la Chiesa è l'inventore istituto questa discriminazione, no? E l'ha accettato e ha trasformato per scopi confessionalistici. No, ma infatti non è, io non sono molto persuaso che di trovare un colpevole, non c'è stato un... Sì, d'accordo. Quindi c'è un nuovo procedere, perché ho l'impressione che in realtà il mandante o comunque l'uscita sia il comportamento sociale di per sé, cioè che sia autoreferente in qualche misura. C'era punto? No, no, siamo punto su questo fare della lingua, direi. L'informazione che mi sembra abbastanza interessante, cioè, dalla parte opposta in Spagna, un trattato di educazione, di insegnanza e educazione per un mondo, dice sostanzialmente le stesse cose, cioè invita i genitori a mandare i figli non in ridicolo o vulgare, ma non in cui fuori, in cui rapporto con il santo, con la funzione del santo, o per tirare poi il giovane alla virtù, cioè una forma di riconoscimento del valore del nome. Se ho ben capito, sarebbe sostanzialmente la stessa cosa. Sì, è come era prevedibile una matassa che era stata presentata in modo sciolto e che si sta invece contorcendo non a via via che ci si lavora sotto. Speriamo che arrivi. Speriamo che arrivi. Mortale. Ma che ogni società abbia avuto dei meccanismi di focalizzazione e che questi meccanismi di socializzazione in un certo senso provengono da siano portati avanti da qualcuno che da qualche gruppo che se ne fa il portatore che certi figli rispondono, mi sembra da mettere la siamo da mettere le radici indoeuropee e forse alla radice della storia dell'uomo è patico. Direi che invece questo che viene messo in luce non è una normale focalizzazione, è una forzatura dei meccanismi di focalizzazione per ottenere un scopo ben preciso, l'omogenizzazione o la funzione, appunto. È diverso perché qualunque società ha dei meccanismi di tradizione di modelli di comportamento, ma qui si tratta di imporre forzatamente a tutti con una serie di strumenti accuratamente prescelti o empiricamente comunque selezionati determinate forme di comportamento che evidentemente non coincidevano con quelle che venivano attraverso i normali meccanismi di socializzazione, altrimenti non ci sarebbe stato un problema. Quindi torno a dire, sei colpevole. Vuol dire qui abbiamo la prima volta l'agente pubblico, ecclesiastico o statale come fattore di socializzazione. Questo vuol dire, ma questa è la realtà. Sì, ma scusate, adesso anch'io voglio capire, no? Non... Questa è la novità. Cioè, la novità è che c'è un agente pubblico che interviene nella gestione, nell'uso, cioè, e nel controllo della socializzazione. La socializzazione c'è sempre, tutte le volte che esiste gruppo organizzato, e siamo d'accordo. Sempre quando c'è gruppo organizzato e quando c'è socializzazione ci devono essere anche meccanismi di controllo, altrimenti non sarebbe socializzazione. Non si dà socializzazione spontanea. Socializzazione significa una gabbia che ha dei meccanismi che scattano quando qualcuno non si comporta secondo i canoni accettati comunemente. Quindi sempre socializzazione significa controllo anche. Il problema è evidentemente quello di capire se in questo periodo, in questa zona storica, noi siamo in presenza di canoni e di controlli diversi, particolari, dotati di autonomia, cioè compiuti, quindi modellizzabili. In modo diverso da prima. Questo è il discorso di una forza finora sconosciuta. Anche la forza, scusi, io sempre per capire, non voglio certamente, ma per capire, no? Io. Cioè anche una forza sconosciuta nel senso di un modo nuovo, diciamo, una forma nuova, un canale nuovo, un meccanismo nuovo attraverso cui la sterilizzazione viene appunto gestita, cioè messa in opera e controllata. Quindi che si tratti di un agente pubblico, chiesa o Stato, e che questo agente pubblico venga riconosciuto come originale, cioè come prima non esistente, questo cosa significa? Significa che noi diciamo, all'inizio dell'età moderna, cioè, tra 4 e 500, in una zona che più o meno corrisponde con l'Europa occidentale, si verifica un fatto per cui si ha una monopolizzazione degli strumenti di socializzazione. Mentre prima, evidentemente, dobbiamo pensare che non essendoci un agente unico, pubblico, i poli di specializzazione erano plurimi, erano più. Non c'era una monopolizzazione della specializzazione, ma c'era una situazione di poli. Ecco. Benissimo. Quindi questo è un primo. Cioè, sono cose banali, probabilmente. Mi scuso molto per la banalità di queste cose, ma è sempre per capire io, no? Quindi questo è un fatto. Se questo è già un primo risultato, io per tanti anni ho chiamato questo appunto, ecco, cioè la formazione dello Stato moderno, era rozza come osservazione, come approssimazione. Adesso possiamo dire che prima di parlare di formazione dello Stato moderno possiamo dire che è riscontrabile nei fatti un processo di monopolizzazione, cioè di reductio ad unum, dei processi di socializzazione. Ecco. Il problema è di capire, se questo è vero, il problema è di capire perché questo processo si compie in quel modo. Cioè perché l'agente pubblico monopolista che si afferma, che vince, è questo piuttosto che quello. E perché nell'ipotesi del professor Reinhardt, in ogni caso, senza pregiudicare valutazioni complessive finali, in ogni caso, questo agente pubblico, chiunque sia, passa anche per la confessionalizzazione. Cioè, si dice, in questo processo di monopolizzazione, incontriamo a un certo punto una porta obbligata attraverso cui comunque si passa, che è la confessionalizzazione. Ma la confessionalizzazione, chiedo io, è un effetto del processo di monopolizzazione della socializzazione, o è una causa, o è entrambe le cose? Ma tanto appunto vorrei capire cos'è la confessionalizzazione a questo punto, perché probabilmente è questo che non so. Quindi, was ist Confessionalisierung? Primo punto. Secondo punto, certo, è possibile che sia contemporaneamente effetto e causa, ma insomma, bisognerà pure a un certo punto, se si vuole fare gli storici, da una parte piuttosto che dall'altra, altrimenti faremo un altro mestiere, faremo gli esuviti, faremo altre cose. Benissimo. Ecco, io questo è un, non lo so, è proprio un ragionare a voce alta che faccio, ma vorrei proprio capire questa cosa, insomma, no? La confessionalizzazione è un fatto storico, lei giustamente insiste sempre sul fatto storico, ha sempre come intento di togliere dalla storia gli intenti, i progetti, i disegni nascosti, insomma, no? Mi pare che abbia un po' questo atteggiamento metodologico. Benissimo. Ma la confessionalizzazione come fatto storico, perché c'è proprio in quel punto e proprio in connessione, nella sua ipotesi, con questa monopolizzazione della social, della social disciplina. Non c'è una prima causa, o almeno non conosciamo. Non la conosciamo, grazie. Come ho detto, il processo è iniziato per la situazione di concorrenza non delle confessioni, cioè le confessioni sono il risultato, ma delle chiese o delle variante di chiesa, o come si vuol dire. E questo processo ha la possibilità, e per certe ragioni, comincia col ricorso al sviluppo dello Stato nel tardo Medioevo, in Sassonia, per esempio. Chi è la gente che promuove la riformazione? Lo Stato in Anführungszeichen, che sono Anführungszeichen? Di Sassonia. E questo è una, forse c'è un fattore, un processo di fondo comune per le due, ma io non lo conosco. Ma le cose che si probabili è l'interazione del Stato in virgolette, grazie, già esistente, e i nuovi interessi di chiese in situazioni di concorrenza, di rivalità. Bravi. No, adesso non voglio allargare ancora di più, ma credo che invece gli aggregamenti possano parlare concretamente. Per me l'essenziale è un ristudio della politica concordataria, ad esempio a partire dalla metà del 400. Stata vista, secondo me, troppo proprio sotto solo la specie dello Stato o dei rapporti Stato e Chiesa nel senso tradizionale delle nostre discipline accademiche. Ma in realtà, dalla metà del 400 è chiarissimo questo gioco di sottrazione al corpo sociale di certi tipi di decisioni, siano quelle dell'attribuzione di una prebenda, delle elezioni di un vescovo, eccetera, al rapporto invece Stato-Chiesa, cioè all'organizzazione diversa. No? Questo assumerà forme conflittuali o più o meno chiesa anglicana o cose del genere, ma in tutte le misure, ecco, noi vediamo crescere un certo tipo di rapporto che privilegia proprio certi tipi di schieramenti, di cui a un certo punto quasi quasi allora sono provato a dire sì, opto per che la confessionazione è la conseguenza di questo tipo di arco che dicevo poi all'inizio, cioè di questa tendenza di fondo, insomma, ecco, per cui a un certo punto quando il papato concede certi poteri al re sulla chiesa francese nel 1471, può fare certe concessioni ai legati inglesi, insomma, praticamente facendo di volte il capo della chiesa inglese, già di fatto abbiamo in atto dei meccanismi che si muove in una certa direzione, insomma, in modo non traumatico, come avete parlato, dopo la componente delle chiese, che secondo me è sempre vero, produce un'accelerazione bestiale, cioè non voglio assolutamente negare, sono tutte concrete, insomma, ecco. No, perché mi viene in mente, io ho letto un piccolo libro di è una sorta di autocritica rispetto a quanto siamo pensando, può essere un effetto miopia nostra di considerare, no, laico rispetto al confessionale con tutti quegli attributi che costituiscono laico, non di un confessionale ordinato, eccetera, per cui si fuggono gli elementi di continuità nella profondità di queste radici in un processo di modernizzazione, di disciplinamento sociale, in cui vi racconta come il matrimonio medievale risulta alla fine interamente gestito, no, dalla, secondo la società ecclesiastica romana, cioè il modello della città di Roma, su cui a un certo punto si avvia il meccanismo di modernizzazione. E così può dire, come dicevo, se esiste la stessa teorizzazione dei tre ordini nell'ambito della società occidentale, è una teorizzazione anche cristiana. chi parla e chi gestisce, no? E chi enuncia, chi dice questo discorso di ordinario, questa istanza di modernizzazione, di disciplinamento sociale, se ne mettiamo in fila la bibliografia, adesso, sono tutti cristiani, c'è anche il mio amatissimo Antonio De Guevara, sempre questo quando come supplemento se di consente le considerazioni che facete, no? Di questa irruzione, questa scossa che è dovuta alla conflittualità con la sottoraina che pare adesso di nuovo ribadita, alla conflittualità tra chiesa al plurale rispetto a quella che prima era una, quindi il modello praticamente componenziale poteva essere un altro. C'è un emerso in particolare per cui a metà 500 e più rivendico anche queste radici di queste donne in realtà, insomma, del processo sociale, di disciplina. No, ma però qui si sta parlando di questo, cioè io sono sentito subito, ma cioè è d'accordo, ma non si finisce più allora, cioè. È importante chiarire se si può parlare prima di tutto di questo eventuale processo di disciplinare, quindi se forse non se ne può parlare, può dare. Se si può parlare di questo, allora parliamo di questo. E se si può parlare di questo, allora dobbiamo andare a vederne appunto i caratteri distintivi rispetto al primo e probabilmente rispetto anche al dopo che diceva. Prima di questo Hammerstein, perché probabilmente il Settecento, come è stato segnalato, insomma, è un ulteriore momento di torsione, insomma, del processo, che poi dopo va avanti, torna indietro, che ci siano dei resti o dei ricordi medievali o delle anticipazioni, tutto questo va benissimo, però credo che, ecco, per la storia c'è questo problema di decidersi, di forzare anche un momentino, nel senso di dire, scegliamo dei blocchi, dei pezzi, insomma, più o meno omogenei, e su questi ci costruiamo dei modelli di comprensione, altrimenti. Quindi è veramente un po' questo qui quello che mi preoccupa, perché allora se il discorso, se il prima è come si dice, come io anche credo che sia vero, il prima rispetto a questo modello qui è appunto a dominanza ecclesiastica, a dominanza religiosa, eccetera, eccetera, allora questo modello che viene dopo questo prima, che si distingue rispetto a questo prima, rischia di dover essere probabilmente non a dominanza ecclesiastica, non a dominanza religiosa, ma se in questo modello la confessionalizzazione occupa questo perno importante, allora c'è da chiedersi, ma la confessionalizzazione è uno strumento di laicizzazione o è uno strumento di... Questo è il discorso, di chiedersi se a un certo punto in questo trapasso non sia la Chiesa a mutare la propria, anche il proprio carattere, la Chiesa mondana, la Chiesa che si occupa del mondo, non so, io sono cose che poi Paolo probabilmente mi spiegherà in via definitiva, ma voglio dire, questo è il problema che a me la confessionalizzazione al limite proprio come laicizzazione, insomma, come un momento di laicizzazione, cioè come la sutura tra una forza che rimane, se non più dominante, ma comunque presente in modo evidente, eccetera, che è la Chiesa, e dall'altra parte però una realtà, un trend, che pure sarà un dato di fatto, ma c'è, che è la modernizzazione, che è laico, insomma, che è fatto di laicità. Scusa, c'era però Gustavo Corni e abbiamo anche forse dei problemi di vista, no? Gustavo Corni. Io credo che il problema essenziale, che forse devi tornare al discorso dell'assassino, del mandante, insomma, per stare nella metafora di prima, cioè no, mi sfugge, cioè da questa ottica, insomma, della confessionalizzazione, personalmente mi sfugge, forse perché sto dentro a canoni storiografici più tradizionali, il problema del rapporto principe chiesa, cioè in altre parole, io mi riferisco anche qui soprattutto al caso tedesco, che forse io conosco meglio e saluto conosce meglio anche lei. Cioè il problema forse è quello di vedere chi è il soggetto di questo processo. Cioè lei ha parlato di macchie e delle gruppe, mi sembra che questo sia insufficiente. Cioè, e lo ha detto anche lei, insomma, in fondo, cioè, secondo me il problema è di vedere in che misura è lo Stato, per il principe che si fa Stato, ad assumere in proprio la gestione di questo processo di confessionalizzazione. È qui, è in questo momento che la confessionalizzazione, a partire da questo momento, forse che la confessionalizzazione assume un rilievo politico, storico. Nel periodo precedente, cioè prima di questo, forse non ha rilievo. Cioè il problema è chi vince lo scontro, se il principe o i ceti, e in conseguenza della vittoria dell'esito di questo scontro, quale dei due soggetti storici, politici, è quello che assume il proprio, che strumentalizza la Chiesa, perché questo è un dato di fatto. Cioè le gerarchie ecclesiastiche, sia cattoliche sia protestanti, da questo punto di vista dottor Rainer mi sembra ha spezzato dei pregiudizi forse abbastanza diffusi sulla situazione tedesca anche in generale, entrambe le gerarchie ecclesiastiche vengono strumentalizzate dallo Stato. Però chi è lo Stato? Questo è il punto, cioè questo è secondo me il punto centrale. E quindi ancora una volta credo che il problema centrale sarebbe di andare a studiare nel momento in cui lo scontro è. Non niente di quel mondo. Dico subito, il problema secondo me è di andare a vedere nel momento in cui lo scontro tra principe e ceti si svolge e ha il momento, suo momento centrale, decisivo, quali sono i progetti politici che hanno i due. Che progetto politico ha il principe, che progetto politico hanno i ceti, se ne hanno uno, e se all'interno all'interno di quali progetti politici c'è questo discorso della confessionalizzazione, cioè della strumentalizzazione della confessionalizzazione. Cioè, molto complicato perché. Sì. posso dire due cose. Primo, non si agisce di strumentalizzazione, si agisce di cooperazione, di coincidenza di interessi, ma non di strumentalizzazione è un fenomeno della fase del Settecento, credo. Secondo punto, generalmente, non senza eccezioni, io vago, come si dice, vago zu sagen, prendo il rischio di dire che tendenzialmente è il principe di opera più con la Chiesa per scopo di confessionalizzazione. Sono di eccezioni forse, ma generalmente gli stati sono più conservatori a questo punto di vista. Se quelli storici hanno ragione, ti dicono che anche gli assemblee di ceti, si dice così, sono creazioni dei principi e non autocreati. Forse, è una pura speculazione, la fase settuale dello Stato è una prima fase, la confessionalizzazione è una seconda. Questo è pura speculazione. Piero Pasquini, no? In brevissimo, perché mentre mi hanno detto, volevo dire proprio, certamente il problema della forza effetti principe e legittimo, però non è l'unico, c'è quello, questa è la visione di quella comunità, cioè il tema degli universali e la loro provincia. Non è che sono sempre stati, come è vero che non è sempre stato lo Stato, dobbiamo stare in evidenza di un oggetto naturale dell'università. Allora forse questo può essere, diciamo, o anche di capire, sarebbe fondamentale per dare risposta al problema di tutto il mondo. La novità di questa disciplinarità totale, che d'accordo con il sostenente, no, è solo, no, quindi tutte fanno dei meccanismi, però può essere, e in questo senso la confessionalizzazione che non conosco, come ho detto, è molto importante, un tipo di società che sta insieme, il meccanismo che ha bisogno di questa cosa strana, che è l'individuo, che non è perché una società feudale, una in cui il potere ma insomma non appena a individui, ma a tutti aspetti di individuo, il potere sulla tua giornata, da una giornata sul mio dominio, ma poi ti ripeto, se l'ha un altro, se lo fa figurio, non si sapete. Cioè voglio dire, un fenomeno nuovo, e questo appunto della Costituzione, questo oggetto specifico di relazione politica che è il pubblico. Ora probabilmente, e l'ipotesi di la risposta è questa, i meccanismi sociali di confessionalizzazione hanno svolto un ruolo centrale nella costruzione di questo oggetto storico e non naturale, perché più che a questo punto si deve anche dire che non bisogna porsi in modo ossessivo questo problema dei soggetti di queste strategie politiche o di giustizia, perché può benissimo essere il caso, come Reinhardt diceva prima, che ci sono degli effetti perversi che un economista aspetta immediatamente, uno storico di chiusa aspetta, perché non suppone che appunto questo soggetto che la Chiesa va costituendo attraverso la confessionalizzazione, proprio poi è proprio quella cosa che va benissimo per fare il Cristo in pace. Cioè, non perché dovremmo escludere a priori che un progetto si pervertisse, cioè si pervertisse, ha un effetto che non era quello voluto e che va finire una strategia altra. Cioè, appunto, a me questo pezzo della donazione anche mi convince abbastanza, cioè non sento questo. E però credo che il progetto del cuore è centrale, cioè qual è la specificità, allora potrebbe forse essere questo, non lo so. Che provi ancora, poi non so se è ora che mangiare a fame. No, io posso capire, proprio pensavo quel che ha detto Pazzino sugli effetti perversi, ma paradossalmente una delle cose che dico è che lo Stato pontificio diventa stranamente il battitore di strada della laicizzazione dello Stato laico. Per me è un paradosso, ma reale. Di fatto, tra la metà del 400 e la metà del 500, secondo me esercita una determinata funzione. E dopo magari domani non parliamo. Molto bene. Sono contento per una volta comunque colpevole non era maggiordomo. Questo era da due ore che stavo aspettando questo momento, stavo aspettando da due ore, ti ho detto felice. Grazie. E domani, cioè stasera abbiamo appuntamento per chi crede di essere di stare insieme, insomma, alle 8 al direi Albergo Roma, che poi andiamo insieme al ristorante, eh? O no, se no al ristorante Roma che è subito dietro Albergo Roma. Qui si balla, lì non si balla, non no, si balla. No. Questo è, tra che ballano è un altro gruppo. Domani mattina comunque il tram. Domattina dovete essere puntualissimi, se no non si riesce a fare tutto. E quindi dovete essere qui per le 9, che significa che si parte da giù, dovete essere pronti in albergo alle 8:30 domani mattina.